Italia in controluce. Seconda edizione di Italia in controluce, l'approfondimento del GR di Radio 24 che racconta l'Italia dei problemi e delle eccellenze. Quanti sono i cinesi in Italia? Come sono organizzati sul piano economico? Come si sviluppa la loro attività lavorativa? E in quali luoghi del paese si sono integrati? La prima storia di Italia in controluce è ambientata a Milano, in via Paolo Sarpi. Stefano Totoro. Tornare in via Paolo Sarpi, passeggiare e notare che in fondo è cambiato poco o niente. Notare che le telecamere della zona traffico limitato, partite 2 anni fa, il 17 gennaio del 2008, da una parte non riprendono più il traffico delle auto, ma dall'altra continuano a immortalare il via vai dei carrelli trascinati dai commercianti della comunità cinese. Passeggiare, osservare e chiedersi: ma che fine ha fatto il famoso progetto di delocalizzazione delle attività all'ingrosso gestite dalla comunità dell'Estremo Oriente? Quelle attività al centro degli attriti con i residenti per il continuo carico e scarico della merce. Proprio a gennaio di 2 anni fa, contemporaneamente alla realizzazione della ZTL, si parlava dell'Asian Trading Milan Center, un centro che avrebbe consentito la delocalizzazione delle attività all'ingrosso, con la rivitalizzazione del quartiere Sarpi e il relativo trasferimento degli imprenditori asiatici nell'area di via De Missaglia alla periferia di Milano. Progetto guidato da una cordata con a capo 2 imprenditori cinesi, Angelo Hu e Luigi Sun, indicati dal console cinese all'amministrazione comunale di Milano. Telefoniamo ad Angelo Hu. Siamo tutti scesi da cavallo e basta. Non stiamo seguendo, la situazione sta fisiologicamente andando secondo quello che succede day by day e basta. L'amministrazione comunale ha deciso per la ZTL. Contravvenendo a quelli che erano i patti di allora, siamo scesi da cavallo o forse siamo seduti sulla riva del fiume. Gli imprenditori cinesi sono scesi da cavallo e intanto le attività in via Sarpi crescono. Stando ai dati della Camera di Commercio, crescono sia i negozi al dettaglio rispetto agli anni passati, ma salgono di numero, seppur in misura minore rispetto agli altri anni, anche i centri all'ingrosso. Attualmente sono circa 500. Pierfranco Lionetto è il presidente dell'associazione Vivi Sarpi, che riunisce gran parte dei residenti della zona. Ci vediamo in un bar adiacente al quartiere. Il problema è che uno fa fatica a spiegare alle persone che non vivono qui. L'attività all'ingrosso vive sul fatto che devo caricare il magazzino e devo scaricare. Il mio cliente è un altrettanto grossista che viene col furgone, col camion, con l'autovettura e carica. Allora, questa attività e questa movimentazione, non essendoci zone di carico e scarico per il quartiere, è a vie strette. È residenziale, ora dove svolgo questa attività? In mezzo alla strada, sugli androni, dopodiché per il trasporto uso i carrelli, uso le biciclette e questo viene fatto costantemente. Alimentari, negozi di elettronica, abbigliamento, borsi, centri per il trasferimento di denaro, nella Chinatown milanese c'è di tutto. E la Chinatown milanese non è soltanto via Sarpi interessata dalle telecamere della ZTL che dovrebbero inibire le azioni di carico e scarico, è allargata a via Giusti, via Bramante, via Niccolini e via Rosmini. Lì le telecamere non ci sono e le attività di carico e scarico avvengono esattamente come prima. I vigili controllano, fanno le contravvenzioni, ma non bastano. Entriamo in un negozio di alimentari in via Rosmini, il direttore è Richard Chen. Senta, si è parlato molto negli anni della delocalizzazione delle attività, soprattutto all'ingrosso, gestite dalla comunità cinese qui in via Sarpi, però di fatto questa delocalizzazione non è avvenuta. Perché? Non è avvenuta perché la zona è diventata una zona cinese all'ingrosso anche perché all'inizio tutti hanno comprato un locale, non un locale ma una licenza per avviare la propria attività. Quindi hanno pagato la buona uscita di magari un altro commerciante. Ovviamente se su questo qua è un investimento che qualcuno vuole recuperarsi, che mi sembra tanto normale. Poi le licenze sono date dal comune, quindi sono tutte in ordine. Francesco Novetti è un commerciante, è un'erboristeria in via Sarpi, riconosciuta come bottega storica dal comune di Milano. Da qualche anno è presidente dell'associazione Sarpi Doc, che riunisce molti commercianti della zona, alcuni anche appartenenti alla comunità cinese, quelli più vicini al commercio al dettaglio. Come i residenti, anche i commercianti si battono per trasferire l'economia all'ingrosso che si è instaurata in questa zona dalla fine degli anni 90. La situazione che si ha adesso ovviamente non è né carne né pesce, cioè stiamo soffrendo di tutte quelle limitazioni che possono esserci state con la chiusura al traffico, con la modifica dei tragitti degli autobus, con tutta questa situazione senza avere tutti i vantaggi che dovrebbero esserci quando sarà completata l'opera. Per voi commercianti ci sono delle difficoltà di convivenza con i commercianti della comunità cinese? Ma la difficoltà di convivenza è riguardante non proprio per la tipologia di vendita, cioè nel senso che un insediamento di attività all'ingrosso così ha snaturato quello che era l'impostazione commerciale della via e della zona. C'è un discorso di magari convivenza condominiale, per cui determinate regole condomini di vita comune magari non sempre vengono rispettate o non sempre vengono accettate in modo evidente. Un primo passo verso la delocalizzazione si chiama La Chiarella, un piccolo centro alle porte di Milano dove alcuni grossisti cinesi hanno aperto il proprio magazzino, ma non hanno chiuso l'ingrosso in via Sarpi. Non esiste un progetto comune. Come dire, proviamo, ma teniamo i piedi in due staffe. I commercianti al dettaglio fanno la guerra ai commercianti all'ingrosso, i residenti non sopportano più il via vai di furgoni, carrelli e biciclette, ma Pierfranco Leonetto dell'associazione Vivi Sarpi sottolinea come, nonostante tutto, non ci sia una guerra fra etnie. Nonostante la situazione dell'ingrosso non sia migliorata, anzi sia andata peggiorando in questi anni perché adesso veramente la presenza è massiccia, quello che io vedo come importante è che comunque i residenti hanno tenuto, cioè il quartiere non si è trasformato, anzi direi che c'è un aumento di persone giovani che vengono ad abitare in quartiere. L'ultima mossa dell'amministrazione comunale è datata inizio novembre 2009. L'assessore allo sviluppo del territorio Carlo Masseroli ha assicurato una svolta con il nuovo piano di governo del territorio. In città non ci potrà essere commercio all'ingrosso dove non ci sono le condizioni, ha detto Masseroli, e in via Paolo Sarpi le condizioni non ci sono. Il piano consentirà le attività all'ingrosso solo nelle aree di rinnovamento urbano e quindi anche le attività già esistenti dovranno per forza di cose traslocare da Chinatown. Una promessa che potrebbe essere mantenuta entro fine gennaio e che i residenti ovviamente aspettano impazienti. Italia in controluce. E da Milano spostiamo la nostra visuale 300 km più a sud, Prato. Prato è una città alle porte di un'altra città. Se tu da Firenze vai verso Bologna neanche ti accorgi e sei entrato in quella che per anni veniva considerata la capitale del tessile. E oggi, negli immensi capannoni, chi ci lavora? Il racconto di Ubaldo Cianciulli. Quella dei cinesi è una delle 116 comunità di diverse etnie presente sul territorio di Prato, una città diventata una torre di Babele. La realtà cinese negli ultimi 20 anni è cresciuta in modo esponenziale, è difficile quantificarli. 20.000 dovrebbero essere cinesi irregolari, ma forse altrettanti sono quelli non in regola col permesso di soggiorno, su una popolazione complessiva di circa 190.000 abitanti. Per parlare dei rapporti fra pratese e cinesi abbiamo incontrato l'assessore comunale alle politiche per l'integrazione, Giorgio Silli. I rapporti con i cittadini pratesi non sono certamente idilliaci. I problemi grossi sono stati dati dai cinesi in Cina, con una produzione di tessuti a prezzi molto più bassi. I cinesi pratesi hanno costituito un distretto parallelo dove si occupano di, o perlomeno si occupavano, di produzione di confezioni. Se non che questa grandissima crisi, che sta portando molte industrie pratesi a chiudere, costringe gli industriali e gli imprenditori pratesi a vendere. E ahimè, in questa situazione, molte realtà che possono permettersi di acquistare un'azienda, uno stabilimento, un'industria, sono cinesi. Purtroppo i cinesi hanno delle abitudini nell'ambito del lavoro che comunque si sposano male con le nostre. È all'ordine del giorno lo sfruttamento del clandestino, il lavoro minorile e indubbiamente, come dire, una sorta di fiscalità fatta un po' a modo loro. Questo perché i cinesi immigrati generalmente non prendono la cittadinanza italiana per non perdere l'opportunità di investire economicamente nel loro paese di origine. Ma un fenomeno legato ai cinesi è quello della criminalità. Per un bilancio sulla situazione ascoltiamo il questore di Prato, Domenico Savi. I fatti criminali sono tutti contenuti all'interno della comunità. Il reato più ricorrente sicuramente è quello che corre lungo il filo dell'estorsione, che magari, se non esaudita, o il tentativo di estorsione sfocia nella rapina, nell'aggressione, nel procurare lesioni. Questo è lo standard più ricorrente dei reati. Ci sono bande essenzialmente giovanissime che fanno questa attività, non si tirano indietro nell'usare soprattutto le armi bianche, va di moda la mannaia e il coltello. I conti si regolano in questo modo. Nonostante tutto, i pratesi dicono di non poter più fare a meno dei cinesi. Se andassero via dalla zona del Macrolotto e da via Pistoiese lascerebbero tantissimi locali e magazzini vuoti. Noi siamo andati nella Chinatown in via Pistoiese, un fiume di cinesi come se fossimo a Shanghai, un susseguirsi di negozi con insegne anche in cinese, gestiti da cinesi, quasi scomparsi negozi di italiani. Noi abbiamo trovato un fioraio e un edicolante. Qui vanno un po' regolarizzati. Ma lei si sente un po', tra virgolette, straniero in patria? Chi ci si mette sulla porta? E chi la vede passare 20.000 cinesi il giorno e la vede 3 italiani? In poco tempo la situazione è degenerata, perché quando è messo in negozio io non era mio un affare di questa maniera. Poi c'è rimasto gli italiani che stanno tutti cercando di andare via. Si arriverà il punto e la sarà completamente tutta sua. Come va? Non bene, perché il lavoro è calato tantissimo, perché ci sono tutti di loro, gli italiani non ce n'è più, fabbriche non ce ne sono più, i cinesi non comprano, quindi è un macello. Comprano solo da chi glieli porta cinesi. Mi tocca restare qui, lavorare finché posso, quando ci si farà più si chiude i bandoli. E arrivederci e grazie. Dopo aver conosciuto la Chinatown pratese, incontriamo un imprenditore toscano, Bruno De Lazzari, che ha fatto il percorso inverso. Da Firenze è andato a lavorare in Cina. Sono andato a Hangzhou, vicino a Shanghai, circa 20 anni fa, nel settore delle scarpe. Ed era zero, sotto zero, con le forme ancora di legno legate ognuna, ogni paio per sé, perché non erano fatte a mano. E non c'era niente. Dovevamo portare tutto dall'Italia e adesso sono diventati bravi. Potrebbero fare le scarpe per tutto il mondo, ma non hanno problema di gente. Venivano da niente. Alle 13.45 minuti e 57 secondi il racconto di Italia in controluce termina qui. Le puntate sono disponibili su www.radio24.it. Le vostre domande sui temi trattati, le proposte sui problemi, le eccellenze delle città potete inserirle già da subito sulla bacheca del gruppo di Facebook Radio 24 Italia in controluce, oppure via mail controluce@radio24.it. Italia in controluce torna domani alle 6.30.